diciamo, forse qualcuno lo pensa, ma ha sentito dire forse in questo momento non ancora. Per Francesco Mariotti, segretario del Circolo di Porta Venezia, nella base c'è più unità che nei vertici. C'è una preoccupazione comune e c'è una responsabilità comune che viene sentita nei confronti del paese, sicuramente. E questo poi porta a discutere magari animatamente, sì, poi le sensibilità diverse ci sono ovviamente, però ho la sensazione che molto spesso le divisioni siano più marcate a livello di vertice che non nei quadri intermedi, nella base e simili. C'è un'unità di fondo, a mio avviso, sull'orizzonte complessivo che questo paese deve avere nei prossimi anni, per cui da questo punto di vista, con differenti sensibilità, però meno spinte di quello che appare sulle colonne dei quotidiani, tanto per intenderci. Quanto pesa sul PD il no della CGIL a questa riforma? Pesa sicuramente meno di quello che può forse apparire a chi guarda la politica con, diciamo, schemi di un tempo, ecco. Però sicuramente pesa, perché c'è comunque forte rispetto per le posizioni della CGIL, forte attenzione, sapendo che però i ruoli sono anche distinti, quindi ormai si ragiona in maniera, come dire, coordinati ma distinti. Non ho la percezione di una volontà di rottura rispetto a questo governo, che comunque ha segnato un salto di qualità molto positivo per il paese. C'è appunto una tensione, c'è una preoccupazione, c'è una riflessione da fare, per cui non è liscio il percorso, però no, rottura direi di no. Si sa che questo è un passaggio che in qualche modo andava fatto, ripeto, poi si tratta di sapere che è una prima tappa, per poi eventualmente, quando prenderemo testimone noi, fare ulteriori passaggi, ecco. La base ha voglia di farsi ascoltare, ci dice Patrizia Chirico, coordinatrice del Circolo del quartiere Barriera di Milano, uno dei circoli storici di Torino. Sicuramente c'è voglia di partecipazione dovuta al fatto di avere un rapporto più diretto con la politica, cioè la base ha voglia di farsi ascoltare. E quindi il dibattito è un dibattito generalmente molto più forte dell'anno passato, di 2 anni fa. Tutti i coordinamenti sono molto partecipati e dalla base c'è proprio richiesta di organizzare il programma dei coordinamenti. È in discussione la linea del PD rispetto a questo governo sulle tematiche del lavoro dell'articolo 18? Forse inizialmente, però il messaggio che è passato è che questo governo era un governo indispensabile e che la concertazione, quindi smussare gli angoli da una parte o dall'altra, è necessaria per far andare questo governo. Quindi alcune posizioni vengono prese chiaramente a malincuore, però sono sempre presenti sul pezzo. Cioè sono aperti al dialogo, alla discussione, non c'è una chiusura totale, anzi non c'è assolutamente la chiusura verso questo governo. Poi Torino, con la questione della Fiat come città in cui l'immigrazione e soprattutto questo quartiere ha il più alto indice di immigrazione, il fatto di avere anche Cesare Damiano a Torino, e quindi questa discussione dal punto di vista del lavoro è stata sempre presente nel corso degli anni, fa sì che nella base ci sia sempre un interesse abbastanza alto. Le divisioni nella dirigenza tra l'ala più conservatrice e quella più riformista, di cui si legge in questi giorni sui giornali, hanno una qualche ripercussione nei circoli? Devo dire che i circoli non c'è una suddivisione tra una parte più ardita e una parte più conservativa. Nei circoli c'è voglia di unità e tutto quello che succede nei vertici e le discussioni interne al partito vengono patite dalla base. A differenza appunto dei vertici c'è più mediazione, c'è più discussione. Chiaro, il dibattito c'è, è normale ed è fisiologico, proprio perché il partito è costituito da diverse anime, ma sicuramente quello che si legge sui giornali non appartiene al dibattito del coordinamento, o perlomeno poco, molto poco. C'è stata qualche insofferenza nei confronti di chi, ad esempio, ha detto questa riforma va votata comunque? Chiaramente questa sofferenza c'è stata, ma ha prevalso l'idea che la riforma deve andare avanti, non ad ogni costo, con una discussione, con i relativi aggiustamenti. E l'articolo 18 chiaramente è il punto cruciale. Sull'articolo 18 vale quello che ha detto Bersani. Questa, come tutte le puntate di Italia contro luce, le potete trovare in podcast scaricabili su radio24.it. Torniamo domani 6:30 a Radio 24.